Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Il gioco consisteva nel raccogliere in un elenco 1000 numeri di targhe di auto, moto e camion. E la prima compagnia che avesse consegnato la lista completa avrebbe vinto in premio un pallone di cuoio. Si andava avanti così, armati di matita e blocchetto, fino a sera. Mi chiamo Sandro, abito a Nova Milanese e faccio l'agente di commercio, vendo giocattoli. Lei mi aveva detto: porta un tuo amico. Poi aveva messo giù. La telefonata era finita così. Io fino ad allora la frase porta un tuo amico l'avevo sentita solamente nei telefilm alla televisione. E solo coniugata al femminile, tra l'altro. Credevo che casomai dovessero essere gli uomini a dirla. E non credevo che ci fosse qualcuno, uomo o meno che meno donna, da qualche parte nella mia città o in Italia o nel mondo, che la pronunciasse per davvero una frase del genere. D'altronde avevo solo 17 anni, allora. Non è così. Non è che fossi granché esperto di donne o della vita. Soprattutto mi aveva fatto effetto come lei me l'aveva detto. Porta un tuo amico. Il tono. Come se fosse la cosa più naturale del mondo. Come se lei mi avesse detto: porta un panettone che ce lo mangiamo, oppure porta una bottiglia di spumante che ce la beviamo. Sì, perché il periodo era quello. Natale. Intendo dire il giorno di Natale. Proprio quello. Oggi è l'ultima chiamata che facciamo per ricevere racconti che hanno a che fare con le feste, col periodo natalizio, ma che non hanno a che fare con lo spirito di Natale, i regali e, diciamo, l'idea comune che si ha del Natale. Questo è un pezzo di racconto che è già diventato una puntata, che ci ha spedito Emilio e che si intitola, va da sé, Porta un amico. Ed è ambientato proprio il giorno di Natale, ma vi assicuro che ha tutto un altro ripiego e ha tutto un'altra seconda lettura. Voi siete qui, @radio24.it, se avete voglia di immaginare un piccolo episodio che vi è accaduto in uno di quei giorni che stanno lì intorno a Natale, prima di Natale, il giorno di Natale, ma anche dopo, tra Natale e Capodanno, fino alla Befana, vale, ok? Qualsiasi episodio che vi sia capitato, ma che non riguarda strettamente le feste natalizie, quindi non riguarda i regali, eccetera, eccetera, eccetera. Voi siete qui, @radio24.it, e noi ci facciamo una puntata, perché siamo veramente avanti. Insomma, avanti, stiamo semplicemente preparando le puntate natalizie. La storia di oggi è la storia di Alessandro, invece, che noi abbiamo immaginato come quando ci sono quei momenti, quelle volte in cui tu credi talmente in qualcosa che veramente non ha importanza se quella cosa è vera, se quella cosa ti farà felice, se quella cosa ti appartiene oppure no. Ma oggi si parla di quello, della cosa in cui voi credete, qualunque essa sia. 349-238-6666, oppure il profilo Facebook del programma, che è sempre quello lì, ed è Voi siete qui Radio 24. Hanno scritto già su quel profilo Barbara, dice: io credo nelle persone, ma non faccio sempre bene. Laura, beh, dipende da come te le scegli anche, no? Laura, io credo alla felicità. Lorenzo, credo, 1, che in cucina ci vogliono sempre olio, aglio e cipolla. 2, che sia importante perdersi ogni tanto. 3, che non bisogna mai prendersi troppo sul serio. 349-238-6666. Niente, questo è un nome inventato e non è firmato. Credo nel vino e nella birra buona. Credo nel sorriso delle donne che riesco a far divertire. Ecco, solo in quelle che riesce a far divertire, però. Ho la sensazione che le altre invece, nelle altre non ci credi tanto, eh? Un po' come dire, beh, quelle che ridono le mie battute hanno capito e mi hanno capito. 349-238-6666. Si parla di credere in qualcosa, qualunque essa sia. E poi più tardi, grazie alla storia di Alessandro, si parlerà anche, appena posso, colgo l'occasione per farlo, di illusionismo e di come credere alle piccole magie o alle piccole illusioni abbia a che fare con un piccolo mistero e quindi con un segreto. E quindi parleremo più tardi del valore che hanno i segreti nell'illusionismo, nella magia, ma in generale anche un pochettino nella vita quotidiana. 349-238-6666. Ascoltate la storia di Alessandro, perché ha a che fare col credere nelle cose, col crederci per poter fare delle cose, ma anche su quelle voci che a un certo punto girano in un gruppo di persone, in un gruppo di colleghi, in un paese, in una nazione, e da zero, senza capire perché, tutti ci credono fortemente. Estate, periodo vacanze scolastiche anni 60. Erano quelle giornate in cui l'afa e il caldo già di prima mattina ti facevano passare la voglia di giocare al pallone, andare in bici o rincorrersi a palla prigioniera. Troppo caldo. Sudavi solo al pensiero di farli, quei giochi così impegnativi. Ecco che allora cominciava a girare una voce, prima in sordina, poi però si materializzava sempre di più, fino a che non esplodeva. Le targhe. Si gioca alle targhe. E la compagnia, che fino ad un momento prima era lì svogliata per il troppo caldo, si animava di colpo. Era tutto un fermento. Dai, veloci, che quelli del Moronini hanno già iniziato, e anche quelli della Curtascia, li ho visti io. E poi ci sono già in giro pure quelli del Valet, con carta e penna. Questo era il segnale che la sfida era iniziata tra le varie compagnie del centro. Si formava la squadra della piazza e iniziava la sfida anche per noi. Diciamo, cominciava a girare questa voce che prima partiva in sordina, niente, si fanno le targhe, e allora tutti ci si metteva d'accordo e si organizzava questo gioco, ci si divideva in squadre, e allora si andava in giro per il paese. Il nostro era un paese abbastanza piccolo, e bisognava raccogliere appunto i numeri delle targhe, perché la voce era che al raggiungimento di 1000 numeri di queste targhe avremmo vinto un pallone di cuoio. Il gioco consisteva nel raccogliere in un elenco 1000 numeri di targhe di auto, moto e camion, e la prima compagnia che avesse consegnato la lista completa avrebbe vinto in premio un pallone di cuoio. Le regole erano poche ma chiare. Non potevi inventare i numeri. Le targhe dei camion valevano doppio, le moto 3 punti, quelle fuori provincia 5 e quelle con la scritta prova 10 punti. Quindi si partiva tutti in giro per il paese alla ricerca dei pochi mezzi circolanti per segnarne il numero di targa. Ognuno posizionato nel posto che riteneva più strategico, tipo l'angolo di una via, un incrocio, un parcheggio. I più temerari arrivavano fino alla provinciale in bicicletta. Si andava avanti così, armati di matita e blocchetto, fino a sera. Se tu la rapporti a quel periodo, che c'era ben poco, il pallone di cuoio rappresentava quasi l'oggetto del desiderio, come potrebbe essere adesso, non so, ti faccio per esempio l'iPad, la PlayStation e così. Allora proviamo a vedere se magari anche dei ragazzini di quell'età lì, magari diciamo, guarda, non so, se raccogliete 1000 numeri di targhe di automobili avete una PlayStation. Secondo me ancora in questi tempi qualcuno ci potrebbe anche cascare. Già al secondo giorno però l'entusiasmo per il nuovo gioco calava un po'. Qualcuno cominciava a defilarsi e qualcun altro trovava qualcosa di meglio da fare. Ecco che allora, così come si era materializzata la voce che dava il via al gioco, incominciava a circolarne in sordina un'altra, che diceva più o meno così: sì, ma poi a chi dobbiamo consegnare la lista delle targhe? E soprattutto chi ci dà il pallone se vinciamo? Anche quello era un segnale, il segnale che tutti si aspettavano per interrompere la sfida che oramai aveva già stancato. Perché in fondo lo si sapeva già dall'inizio che non c'era nessuno che ci avrebbe ritirato i numeri. Per farne cosa, poi? E a che pro? Tutti, insomma, sapevano che si trattava di una bufala, ma allo stesso tempo tutti stavano al gioco. Quasi per magia il gruppo si sfaldava, il foglio stropicciato con i numeri spariva e presto il gioco delle targhe veniva dimenticato e sostituito da qualcos'altro. Non si sarebbe più parlato delle targhe fino all'estate successiva, quando in una di quelle giornate in cui l'afa e il caldo già di prima mattina ti facevano passare la voglia di giocare al pallone, andare in bici o rincorrersi a palla prigioniera, ci saremmo ricascati nuovamente. Saremmo altri due, felici come valigia caduta da un aereo. Ogni cosa che facciamo ha senso solo fino a quando ci crediamo. Come il gioco delle targhe, come il proprio lavoro, come un matrimonio. Se non ci crediamo più, è facile smontare tutto. Quando qualche anno fa mi hanno detto che in Serie A si compravano e si vendevano le partite di calcio, ho smesso di guardarlo il calcio. Perché non c'è gusto se non credi che sia vero davvero. Così come quando smetti di amare una persona, che è esattamente quando smetti di credere che sia la più bella del mondo, la più gentile, la più generosa, la più divertente del mondo. È chiaro che non l'è mai stata, lo sai benissimo anche tu, ma tu hai sentito così e quindi per te era così. Qualcuno dice che quando smetti di credere a qualcosa, stai vedendo la realtà in maniera molto più lucida. Non lo so, forse è vero. In fondo nessuno avrebbe dato un pallone alla squadra che portava più targhe di macchine nella storia di Alessandro. Lo sapevano tutti. Per un po' però hanno fatto finta di niente e si sono divertiti. Poi hanno smesso di crederci e hanno cambiato gioco. È un po' la forza dei ragazzini, che riescono a ingannarsi facilmente e lucidamente. E poi non ci rimangono troppo male quando cambiano oggetto dell'interesse o proprio cambiano gioco. Semplicemente lo cambiano, punto. Come cambi un'idea sul gusto di gelato che gli piace o sulla squadra di calcio da tifare? Quella forse un po' meno. Crederci comunque è tutto. Ho letto un articolo qualche giorno fa in cui un famosissimo psicologo diceva che perfino l'innamoramento può essere allenato. E che, se ci vuoi credere, puoi amare qualcuno che prima non amavi. In fondo già moltissime ricerche hanno dimostrato che chi si sposa con i matrimoni quelli combinati, nel lungo periodo si scopre addirittura più innamorato di chi si sposa dopo un'appassionante storia d'amore. È come quando sorridi, ho letto, cioè lo diceva proprio l'articolo. La felicità si impossessa di te a forza di fingere di essere felice. La felicità si impossessa di te a forza di fingere di essere felice. Che non è il massimo del romanticismo, ma è anche una bella speranza per i delusi o per gli scontenti. E crederci può essere un esercizio o un gioco. Certo, crederci troppo nelle cose a volte può essere pericoloso, ma altre volte può servire anche a trovare in se stessi delle forze che non pensavi di avere. Come nella storia dei due ragazzini che leggevano tantissimi fumetti di Spider-Man, non so se l'avete mai sentita. Sono due storie diverse, non c'entrano nulla l'una con l'altra. Però le ho sentite qualche anno fa, le ricordo bene e secondo me un po' c'entrano. Dunque, uno dei due ragazzini, venezuelano, è caduto da un albero e si è rotto un braccio. Lo ha fatto perché era convinto di poter saltare da un ramo all'altro perché stava indossando il costume dell'uomo ragno. Che poi chissà, magari l'avrebbe fatto comunque perché a volte i bambini ci provano a fare delle cose e se non ci riescono si fanno male. Però la storia più bella è quella di Riquelme Wesley Marshall dos Santos. Il nome me lo ricordo ancora tutto per intero. Lui era un bambino di 5 anni, di San Paolo del Brasile. Un giorno si è trovato in mezzo all'incendio di casa sua e ha salvato sua sorella, di 10 mesi, andando tra le fiamme mentre sua madre era bloccata dal panico. Anche lui aveva paura, ovviamente. Solo che poi ha indossato il costume dell'uomo ragno e si è sentito invincibile. Si è sentito un eroe. E ha fatto quello che avrebbe potuto fare chiunque se solo lo avesse provato. Perché le fiamme facevano paura ma non erano ancora così pericolose. Lui è andato nella stanza della sorella, l'ha presa in braccio e l'ha portata fuori. Lui ci credeva che quel costume gli potesse dare forza. Ci credeva moltissimo. E il costume non l'ha tradito. E lui non ha tradito il costume. Quello in cui credo che Chiara mi voglia bene, ma forse ancora non lo sa, scrive Alessandro. Credo nella famiglia che ti chiede tanto, ma ti rende sempre di più. Una figlia, mamma, moglie e nonna. Credo profondamente all'espressione dello sguardo di mia moglie, Luigi. Luigi, ci piacerebbe immaginare com'è l'espressione dello sguardo di tua moglie. E soprattutto in quale occasione, quando? Quando le dici qualcosa, quando lo dice lei? Credo che fermerò la macchina, entrerò in un bar e mi farò una birra. Enzo da Milano, 349-238-6666. Questa roba del credere in un gioco e farlo anche se quel gioco non ha senso, che come racconta Alessandro e nella sua storia si parla di targhe, in realtà ne parlavamo con Tiziano proprio adesso e Paolo di là dal vetro. C'è venuto in mente adesso, c'erano giochi di questo tipo che avevano a che fare con raccogliere delle cose in serie, tipo nel suo caso le targhe, ma c'erano i tappi delle bottiglie, i tappi quelli di latta, no? Di bottiglie d'acqua, di birra, i tappi, i codici a barre ad esempio, o gli scontrini. Non si capiva mai a chi avresti dovuto consegnarli e cosa ti sarebbe arrivato in cambio. Però evidentemente o era un modo per passare il tempo o era un modo per credere in qualcosa. Lo era sicuramente nel caso di Alessandro, che addirittura adesso è diventato un agente di commercio e vende giocattoli. Pronto Alessandro? Ciao Matteo. Ciao, come stai? Bene, grazie, tu? Benone, dove sei? In auto? Guarda, mi sono fermato in un autogrill perché tra un cliente e l'altro ho detto non posso mancare all'appuntamento con Matteo. Che tipo di giocattoli vendi? Ma giocattoli un po' di tutti i tipi, per bambini, dalla prima infanzia, diciamo che oramai si è ridotto molto. Quando arrivano 7-8 anni i bambini non guardano più i giocattoli ma guardano qualcos'altro, che può essere l'iPhone. Certo. O, vabbè, non facciamo pubblicità. Ma sì, vabbè, tanto li conosciamo, guarda, esatto. ci abbiamo anche fatto una puntata una volta. Ma per un'unica marca, Alessandro, oppure per diverse? No, beh, per varie aziende, ho il mandato di varie aziende, quindi le rappresento e... Senti, torniamo invece ad anni fa a Nova Milanese. Sì, sì, sì. Tra l'altro, scusami, Nova Milanese è paese di Giovanni Testori, giusto? Sì. Giovanni sì. Testori di... Che però mi pare che abbia uno pseudonimo, nel famoso libro Cavallino Bianco, stai parlando? No, io sto parlando di Giovanni Testori, quello del Ponte della Ghisolfa, insomma, autore lombardo, storico, che scriveva lombardo, vabbè, insomma. Sì, sì. Allora, però credo che sia di Nova Milanese. Senti, sì. Torniamo là però. Chi è che metteva in giro sta voce che c'era un gioco, guarda, che se raccoglievi Matteo, le targhe? La voce, come ho scritto lì appunto nel racconto, partiva così e non riuscivi a capire chi la metteva in giro. Una voce che partiva così in sordina e poi, diciamo, questo tantam era sempre più invadente e poi alla fine esplodeva, ci fanno le targhe, alla fine diciamo che era tutto un fermento, tutte le varie compagnie si agitavano. Però scusami, non c'era un arbitro? No, non c'era un arbitro. Cioè, poi se ti devo dire la verità, più che un gioco, io poi ci ho pensato in questi giorni quando mi hai detto che appunto avresti fatto la trasmissione, ho detto ma più che un gioco secondo me era una rappresentazione, una finzione, una specie di come si può dire, una specie di gioco delle parti dove ognuno era consapevole di partecipare a questa finzione, diciamo. Quindi... Buttiamola ancora più lì, diciamo un grande fratello degli anni 60, dai, può andare bene. Sì, no, non so come ci siamo arrivati dall'Italia al grande fratello, però può, noi comunque può anche, che se ci pensi... Può anche andare bene. Quanti anni hai tu, Alessandro, scusami? Io ne ho 54. Hai famiglia, hai mogli, figli? Sì, ho moglie e figli che saluto perché mi stanno ascoltando sicuramente. Quanti anni hanno i tuoi figli? Riccardo ne ha 15 e la Cecilia ne ha 22. Tu, vabbè, rimaniamo con Riccardo là, perché Cecilia immagino sia all'università e faccia altro, esatto, per divertirsi, esatto. Ma tu hai per caso consapevolezza se Riccardo e i suoi amici fanno ancora giochi di questo tipo o simili, cose che non hanno in realtà né capo né coda, ma ci si racconta e ci si crede fino in fondo? Ma io, guarda, ti devo dire, quando poi, perché sto racconto l'ho scritto, va bene, un libro un po' autobiografico che parla di storie più che altro personali, sì. Ma quando poi l'ho fatto leggere ai miei figli, tra cui anche a Riccardo, mi ha detto, ma è possibile voi che potevate essere così, come si può dire, creduloni da credere appunto a queste Beh, cose? La risposta quindi è no, la risposta è no. La risposta è no, anche se come ti ho detto prima che è passato nel racconto, sì. Cioè il pallone di cuore rappresentava l'oggetto del desiderio a tutti gli effetti di quel periodo. Perché nessuno ce l'aveva e quindi era un po' l'oggetto del desiderio, appunto. Sì, ma se si mettesse in palio... Se rapportiamo adesso, non lo so, diciamo dei ragazzi che potrebbero avere 5, 6, 7 anni di fare un gioco del genere, e gli promettiamo magari appunto l'oggetto del desiderio di questi giorni che potrebbe essere... Un iPad. Senza fare nomi, e loro ci cascano. Non lo so, tu dici secondo me qualcuno lo troviamo. Senti Alessandro, e poi chiudo, qual è stato l'ultimo giocattolo che hai venduto oggi? L'ultimo giocattolo che ho venduto oggi, ma ne ho venduti tanti a dire la verità. Dimmene uno. Dimmene uno, cos'è, una bambola? Sì, beh, ma si possono fare nomi? Ma no, dimmi, so, diciamo, dimmi una, se è una bambola di mattoncini molto famosa. Va bene, ok, quella lì è facile, giochi in casa. Alessandro, grazie sì. Mille, in bocca al lupo per tutto, buona grazie giornata. Matteo. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Domenico, io credo fortemente nella possibilità di uscire dal precariato e noi con te, prima o poi, lui scrive. È in sella a una bicicletta, Alessandro, ed è in sella a una bicicletta di quelle semiprofessionali, quindi è anche agghindato come un ciclista semiprofessionista. Alle spalle ha una chiesetta che credo sia di montagna, perché o forse di lago, potrebbe essere quei posti di lago che ha la montagna a ridosso, tipo il Garda o tipo alcune zone del lago di Como, forse molti laghi hanno un po' di montagna a ridosso, Paolino? Te che sei un ex scout, soprattutto al nord. Ha una faccia sorridente, appoggiata a un muretto perché ha ancora le scarpette da ciclista infilate nei pedali, sorride alla telecamera e fa pollice verso. Credere. Verbo intransitivo e transitivo. Intransitivo. Accogliere tra le proprie convinzioni o opinioni per intima persuasione, per adesione spirituale, per un atto di fede. Dare credito a qualcosa. Ritenerlo vero. Transitivo. Ritenere, reputare vero. Nella forma passiva, di persona, considerarla degna di fede, veritiera. Etimo, latino, credere. Voi siete qui, @radio24.it, voi siete qui, Radio 24, qualcuno ha il commento del dizionario del giorno, che è quello che avete appena sentito, letto da Alessandra De Luca. Innanzitutto è la parola numero 55, quella di oggi, credere, verbo intransitivo e transitivo. Dove l'ho perso il messaggio? Marciano scrive: transitivo sempre, per vivere e non esistere, semplicemente credere, scritto in maiuscolo anche. Bello carico quando mi ha dato questo messaggio. 349-238-6666. Credo che se ci mettono il cuore, gli azzurri battono gli All Blacks. Domenico. Basta crederci, insomma. Ciao Matteo, credo nel mio gatto che quando non ti vuole non ti caga. Non compiace mai. Luigi. No, è diverso però, i gatti semplicemente se non... Vabbè, adesso poi alziamo il polverone sui gatti che non sono affettuosi, lasciamo stare. E poi c'è... Ammazza, ragazzi, questo Francesco è veramente cupo. Credo che la vita sia un'illusione, anche gli amici non esistono. È tutta una barzelletta. Francesco, è andato storto qualcosa oggi. Allora, è sicuramente andato storto qualcosa tra oggi e gli ultimi mesi, probabilmente. Però tira dritto e vedrai che poi pian piano le cose tornano a posto, spero. Ringrazio Rosetta che mi ha ricordato giustamente che Giovanni Testori era di Novate Milanese, non di Nova Milanese. Nova, Novate, no, insomma, ci siamo capiti. Quando parlavamo di credere in qualcosa, a me è venuto in mente quel pezzo meraviglioso del film The Prestige, in cui Michael Caine, presentando il gioco di prestigio e raccontando in cosa consiste un gioco di prestigio, dice: tu vuoi scoprire come funziona il gioco di prestigio, ma in realtà non è vero, non lo vuoi scoprire davvero, tu vuoi crederci, vuoi farti ingannare. A proposito di, appunto, di credere ai giochi di prestigio, credere in qualcosa, io ho beccato uno dei tanti volumi che mi sono comprato sui giochi di prestigio, e nella presentazione di uno di questo spiega come la base del gioco di prestigio sia il segreto, di come l'illusionista debba mantenere il segreto, perché credere ha a che fare con ciò che non conosci. Quando eseguite correttamente un trucco, la prima cosa che gli spettatori vi chiedono è: come hai fatto? Che è un complimento fondamentale, perché significa che voi siete riusciti a stupirli. Alcuni trucchi sono facili da eseguire, e svelare il segreto significherebbe deludere il pubblico. Se dite ai vostri amici come si esegue un numero, non diventerete altro che un presentatore di fantastici enigmi e nessuno vi darà più il credito che meritate. Se invece rimarranno stupiti, sconcertati e divertiti, allora vorranno vedere ancora le vostre esibizioni. Le persone spesso pensano che il segreto di un trucco sia molto complicato e che coinvolga specchi, fili, botole. Fate in modo che il loro stupore sia sempre vivo. Eliminare la sensazione di meraviglia è come dire a qualcuno come finisce un film prima che l'abbia visto. Mantenere il segreto è anche fondamentale per far sì che l'illusionismo continui ad avere successo come forma d'arte. Se tutti conoscessero i segreti, allora potrebbe anche cessare di esistere. Imparare l'arte dell'illusionismo è la classica situazione del cane che si morde la coda, perché se gli illusionisti non svelassero i loro segreti, come sarebbe possibile impararli? Voi avete la risposta nelle vostre mani. Questo libro è stato scritto per introdurvi ai fondamenti dell'arte dell'illusionismo. E qualcosa di più. Qualora voi decidiate di continuare, dipenderà completamente da voi. State per impegnare del tempo per imparare qualcosa che può rendervi famosi e memorabili per tutte queste ragioni. Se rispetterete i segreti rispetteranno voi. E anche oggi incredibilmente è arrivato il venerdì, sono le 16:41 minuti, questa è sempre Radio 24. Io sono Matteo Caccia, il programma è Voi Siete Qui. Facciamo una pausa per il weekend, come sempre, e torniamo lunedì. Ringrazio Paolino Corleoni, Tiziano Bonini, Margherita Ina e Stefano D'Andrea. E ringrazio soprattutto, confermo, all'autore del messaggio che non si firma, che dice Teo, punto esclamativo, ma sei tu? La risposta, purtroppo, o per fortuna, eh sì. Grazie a Sandro, la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Mi chiamo Marisa, vivo a Bellevi, a sud di Roma. La storia di lunedì è la mia, parla del famoso zio d'America che io ho avuto come tante persone. Questa è la mia storia e io sono qui.